This is Ramadan Production, frate. 08, Mordo che parla, Mr. Lombardi, Senka, Joseph Cuervo. È il ritorno della parte contaminata. Produzioni che ti smuovono la Sassari fantasma. Io Giuseppe Cuervo, morto che parla. Fondo sti cervelli, materia detto plasma. 08 nella carta butto inchiostro. C'è chi fuma zero arrosto, mici di scosso. Il tempo grigio ha rotto il cazzo. E se mi vedi in giro porto luce col fracasso. Cazzo! Con nobody e campioni, cosa vuoi che ti racconti? Le favole agli sceni, di certo non hai morti e lamenti giusti e buoni. Ma adesso non ne ho gana, quindi frate, fuori dai coglioni. Il tempo scorre, di certo non lo spreco con storie di rispetto, mancate di disprezzo. Io mi faccio il culo, ma intanto mi diverto. Tra chi si prende male, frate, non ti comprendo. Ho una vita da godermi, non resto tra gli netti. E troppe copie in strada, è l'ora che la smetti di tirare fuori roba scialba del sistema schiava. Quella è merda e non è lava come questa. Bruciano le orecchie, Giose, quella differenza tra il gremio della tazza e chi non è all'altezza. Ora fatti da parte, affidati alla sorte. Pompieri, zombie alle porte. Tu mi senti quando entro? Questo è il verso. Lo vuoi dito o di sbieco? Per me è lo stesso. Tu mi senti quando entro? Questo è il verso. Lo vuoi dito o di sbieco? Per me è lo stesso. Guarda chi trovi, esco da spine e roghi. L'hai capito, siamo giovani e pericolosi. In queste strade intrappolati come cavie, non si sa che accade. Blindate le vostre case e la storia rimane come anni fa, frade. Ci si ritrova ad incastrare filastrocche strane. Butta male troppo spesso in questo cesso, quindi mi esprimo molesto ed il gioco si fa complesso. Faccio spazio tra detriti ad essere siti. Sono l'arma letale, sparo i tuoi falsi miti. MCP riesuma, roba da paura. La faccio su e la mia gente se la fuma. Credo in questo e poco altro, giusto qualche santo. Il potere che deriva dall'asfalto. E se tu non ci vedi chiaro ti delucido, me ne foto del pubblico e lo faccio in modo ruvido. Veri soldi a niente mode, butto giù corone, ostile al tuo sistema che accuso di frode. Ti chiedi come questi qua inventano favole? No, i nostri pezzi sono come le parabole. Hai qualche problema, dobrezza sulla schiena, come quelle alcoliche del mio venerdì sera. Affiliati lesi boy, la mannaia, qua si narra che non trovi gente della nostra taglia. Tu mi senti quando entro? Questo è il verso. Lo vuoi dito o di sbieco? Per me è lo stesso. Tu mi senti quando entro? Questo è il verso. Lo vuoi dito o di sbieco? Per me è lo stesso.